GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 170 milioni di danni. A Mortegliano, a un mese dal maltempo, si lavora ancora. Primo obiettivo: sistemare le scuole. Il lutto di Montereale Valcellina nel primo pomeriggio i funerali di Lorenzo Paroni, il finanziere morto sul Mangart. 100 anni di Paola Del Din, non ho avuto tempo per annoiarmi, dice la partigiana osovana e patriota. Università e caro affitti, a Udine in 2 anni, su di quasi il 16%, gli studenti chiedono soluzioni per il fuorisede. Zero termico oltre i 5.000 metri, un record che va però considerato con cautela, dice l'esperto di ghiacciai Renato Colucci. 12:31 minuti, buongiorno da Andrea Saule e Rita Micoli. Un mese fa la grandine, il vento che hanno colpito varie zone della regione concentrando la propria forza devastante su Mortegliano. 30 giorni dopo siamo andati nel comune friulano per capire a che punto sono i lavori di ripristino in aziende e abitazioni. Ammonta a 170 milioni la prima stima dei danni della grandinata del 24 luglio soltanto per quanto riguarda il comune di Mortegliano, ampiamente il più colpito, il simbolo di questa emergenza che, secondo proprio le parole del vicepresidente Riccardo Riccardi, è stata la peggiore in termini di danni subiti dal terremoto del 1976. Siamo in questo momento sul famoso campanile di Mortegliano e da qui si vedono le tante case che sono state ormai coperte dai teli e dai sacchi che reggono i teli stessi per evitare nuove infiltrazioni in case già pesantemente danneggiate. C'è anche una stima di quanti teli, di quanti sacchi sono stati posti sui tetti e la chiediamo a Renato Campese, che è il coordinatore della protezione civile del comune. Ad oggi sono stati stimati quasi 90.000 metri quadri di teli stesi sui coperture mortelianesi e circa 11.000 sacchetti di sabbia per fermare questi teli. Il lavoro non è ancora del tutto finito, ma ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi in fondo, rimangono piccoli interventi che penso a breve i vigili del fuoco porteranno a termine. Una decina le case inagibili e proprio i privati hanno subito i danni maggiori, circa 125 dei 170 milioni, e ci sono anche ancora degli sfollati. Si punta a riaprire le scuole in tempo per l'anno scolastico che riaprirà nelle prossime settimane. Mortegliano, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Peggiora rispetto a un anno fa la difficoltà per le aziende artigiane di trovare lavoratori da assumere, a dirlo il report nazionale di Confartigianato, una tendenza che in Friuli Venezia Giulia si evidenzia più negativa che in altre regioni. Introvabile il 53% dei lavoratori che le aziende artigiane vorrebbero assumere, il dato emerso dall'ultimo report di Confartigianato Nazionale. A livello locale risulta peggiore rispetto alla media italiana. Oggi è il 48% di manodopera introvabile. Rispetto allo scorso anno il quadro è in netto peggioramento per il solo nord-est di oltre 6 punti percentuali e le imprese del Friuli Venezia Giulia sono tra quelle che faticano di più a trovare dipendenti. Dietro Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Umbria non si trovano in particolare tecnici specializzati nella carpenteria metallica, nelle costruzioni, nella conduzione di impianti e macchinari. Ad acuire la tendenza negativa in regione, il nostro andamento demografico tra i peggiori del paese. Ad affermarlo il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tiratti, che parla di carenza generalizzata che riguarda tutti i settori, anche quello delle manutenzioni che accompagnano la vita quotidiana. Rimarca, anticipando, di lavorare ad un progetto di orientamento e a una campagna di sensibilizzazione da avviare a breve delle scuole con le famiglie e da condividere con tutte le categorie economiche. Tiratti rilancia la preoccupazione del presidente nazionale della Confederazione Marco Granelli, secondo cui di questo passo il futuro del Made in Italy è a rischio, con la richiesta di affrontare con urgenza il problema della creazione di lavoro di qualità, punto sul quale converge l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen, che ritiene che il problema non si risolva con le quote, importando manodopera a basso costo, ma investendo nel capitale umano, puntando su formazione e salari. Quelli italiani sono i più bassi d'Europa, sottolinea Rosolen, evidenziando anche anche il dato dei 30.000 giovani in meno entrati nel mercato del lavoro negli ultimi 10 anni in regione e lo spartiacque del Covid che ha spinto molti a cambiare lavoro. In aumento intanto le aziende che chiedono aiuto alla regione per il reclutamento. In programma da qui ai prossimi 3 mesi un'altra decina di recruiting day, oltre ai 16 già fatti nel primo semestre, con l'intenzione di aprire nuovi canali anche in altre regioni d'Italia e in Europa. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Un nuovo report conferma il caro affitti delle locazioni per studenti anche a Udine, redatto da un portale nazionale che opera nel settore immobiliare. Il report conferma una situazione che l'Unione degli Universitari denuncia da tempo. A Udine negli ultimi 2 anni si è registrato un aumento del 15,75% per le stanze singole e del quasi 23% per le doppie. Per una singola a Udine oggi si chiedono in media 294 euro. Cui vanno aggiunte le spese di tutte le utenze e questo nonostante l'offerta di camere sia aumentata del 48%, cifre ben distanti da quelle che si registravano nel periodo prepandemico, sostiene Rachele Oghetti, presidente del Consiglio degli Studenti dell'Ateneo Friulano, secondo cui con questi prezzi Udine fa fatica a competere con altre città universitarie più dinamiche e radicate nei territori. Gli studenti auspicano un nuovo incontro con Regione, Comune di Udine e Università per affrontare anche il nodo della Casa dello Studente di Viale Ungheria con CGL e SUNIA. L'Unione degli Universitari intanto ha lanciato in tutto il paese la prima indagine nazionale sulla condizione abitativa degli studenti universitari che si chiuderà a settembre. Oggi è il giorno delle esequie private per i due finanzieri morti mercoledì sul Mangart dopo i funerali solenni di ieri a Tarvisio a cui hanno preso parte centinaia di persone. Lutto cittadino a Montereale Valcellina che si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo Paroni, 30 anni, alle 14.30 saranno celebrati i funerali con tutta la comunità nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Grizzo di Montereale. Questa mattina in Abruzzo a Silvi Marina, l'esequio del collega e amico Giulio Alberto Pacchione. L'assicurazione della base militare USAF di Aviano risarcirà la famiglia di Giovanni Zanier, il ragazzo di 15 anni che nell'agosto di un anno fa fu investito e ucciso a Porcia da un'auto condotta da una donna aviere americana mentre si trovava a piedi su una pista ciclabile. L'incidente avvenne di notte. L'accordo è stato stabilito ieri. Durante la fase istruttoria del caso, le perizie stabilirono che la soldatessa viaggiava oltre i limiti previsti e con un tasso alcolemico superiore al consentito. In un primo momento vennero disposti gli arresti domiciliari, poi revocati. La donna è ancora in servizio ad Aviano e non può lasciare l'Italia in attesa del processo. L'udienza preliminare è fissata a novembre. Tra le opzioni della difesa ci sono la richiesta di patteggiamento di rito abbreviato per i reati di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Un secolo di vita senza mai annoiarsi, quello festeggiato oggi da Paola Del Din in villeggiatura Sappada, dove l'abbiamo raggiunta. Figli, nipoti e bisnipoti, ma anche rappresentanti dell'aeronautica militare e degli alpini, tutti radunati per festeggiare Paola Del Din, che compie 100 anni. Lei scherza e chiacchiera con tutti, mentre accetta i regali anche del sindaco di Udine. Paola Del Din. Svegliarsi in questo giorno speciale dei suoi primi 100 anni. I primi 100 anni sono stati molto variati, molto interessanti. Le assicuro che non ho mai trovato il tempo per annoiarmi. Combattente della Resistenza, medaglia al valore militare e prima paracadutista donna ad aver fatto un lancio di guerra, è stata una delle protagoniste della storia durante la Seconda Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia. Lei ha detto che non ha fatto la storia ma l'ha vissuta. Sì, l'ho vissuta, tutta quanta dal principio alla fine. È stato bene così perché adesso così so come è andata la faccenda e posso vedere quelli che sono stati gli errori e posso vedere con preoccupazione quando vedo che si ripetono. Per lei tutto cambiò il 25 aprile del 1944, quando venne ucciso suo fratello Renato in un assalto da parte dei partigiani alla caserma di Tolmezzo. In suo ricordo prende il nome di battaglia Renata, diventa staffetta e raggiunge a Firenze il comando alleato. Viene addestrata in pochi giorni dai britannici a lanciarsi col paracadute. Nel suo primo lancio cala dietro le linee nemiche, nella caduta si frattura una caviglia, ma consegna comunque i documenti. A questa missione ne seguiranno altre. Finita la guerra, Paola Del Din si laurea in lettere a Padova, si perfeziona in America e torna in Italia per insegnare nella scuola pubblica. Una vita di testimonianza, di studio e di coraggio. Sappada, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.40 l'appuntamento con il meteo, il tempo, cielo sereno su tutta la regione. Queste le temperature registrate poco fa, Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi e 5 decimi, a Gorizia 32 gradi e 5 decimi, a Udine 32 gradi, a Pordenone 31 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 28 gradi, Forni di Sopra 27, Tarvisio 26 gradi e 5 decimi, Piancavallo e Sappada 25 gradi e 5 decimi in quota, sullo Zoncolan 23 gradi e 5 decimi, sull'Ussari 23, sulla costa invece a Lignano e Grado 30 gradi con temperatura del mare di 29. Ora le previsioni dell'ARPA. Questo pomeriggio cielo in prevalenza sereno e molto caldo, poco nuvoloso sui monti, con bassa probabilità di qualche rovescio, specie sui settori più interni verso il Cadore e il Comelico. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento e anche le minime rimarranno molto elevate, specie sulla costa. Sulla costa 20 a regime di brezza. Domani cielo in prevalenza sereno e rimarrà ancora molto caldo. Sui monti al pomeriggio sarà probabile cielo poco nuvoloso con la possibilità di qualche rovescio o temporale, specie sui settori più interni verso il Cadore e il Comelico. Sulla costa soffierà borino, specie ad est. Temperature elevatissime anche in quota mettono in crisi i pochissimi ghiacciai rimasti sulle montagne della regione, ma i dati record vanno considerati con cautela, ci spiega il glaciologo di Trieste, Renato Colucci. L'annuncio di ieri, nella notte fra domenica e lunedì, alla stazione di radiosondaggio di Novara, lo zero termico ha raggiunto quota 5.328 metri. Un nuovo record italiano, insomma, per il valore che definisce la quota oltre la quale la temperatura non sale più al di sopra di 0 gradi Celsius. Ma quel dato, secondo Renato Colucci, docente di glaciologia all'Università di Trieste e ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, deve essere correttamente interpretato. Quello circolato ieri mattina sui 5.328 metri di zero termico a Novara, spiega Colucci, effettivamente andava preso molto con le pinze, perché eravamo su valori di qualche decimo sopra lo zero per un sottile strato atmosferico, mentre la temperatura era abbondantemente sotto lo zero fino a circa 1.000 metri più in basso. Infine anche a Udine Rivolto lo zero termico era a 4.444 metri. Il glaciologo segnala comunque un altro dato importante. 12 ore dopo quella rilevazione, in effetti il sud delle Alpi, come il nord delle Alpi prima, è andato con lo zero termico al di sopra di 5.000 metri e, sembra, su valori mai osservati nella storia dei radiosondaggi. In questo delicato momento storico, sottolinea Colucci, con il riscaldamento globale che accelera sempre di più, è oltremodo importante fornire dati alla comunità che siano corretti e verificati, per non dare adito a interpretazioni scorrette che alimentano solamente negazionismo e dubbi, anche leciti a volte, nella popolazione. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ingegneri, urbanisti, architetti, geografi e una trentina di studenti universitari stanno camminando a scopo scientifico da Gorizia a Pirano. Li abbiamo intercettati a San Michele del Carso e ci spiegano il loro progetto. 26 studenti italiani, poi due cinesi, quattro turchi, un indiano, esperti di urbanistica, architetti, ingegneri, geografi, esperti di design e anche un fotografo, perché per un progetto, il laboratorio del cammino, che nasce da una rete di 10 università italiane e anche un'università turca ad Ankara, ne parliamo con Luca Lazzarini, ricercatore di urbanistica del Politecnico di Milano e coordinatore del laboratorio del cammino. Qual è il senso di questa iniziativa e da quando esiste? Il laboratorio del cammino nasce nel 2017 dall'iniziativa di tre giovani studenti universitari con l'obiettivo di sperimentare la pratica del camminare per leggere i problemi del territorio e quindi utilizzare il preciso punto di vista di chi cammina a contatto con il suolo, con i piedi ben piantati a terra, per in qualche modo leggere, studiare il territorio e i problemi che lo caratterizzano. Ultimamente parliamo molto del cambiamento climatico e degli effetti che sta avendo proprio anche qui sul nostro Carso triestino, ricordiamo gli incendi dell'anno scorso per esempio. Il fuoco in questa parte del territorio è sul rischio climatico, quindi quanto l'urbanistica, le politiche territoriali possono in qualche modo aiutare le comunità locali a adattarsi all'impatto del cambiamento climatico sui territori, guardando in particolare un contesto territoriale specifico che è quello del Carso, che sappiamo essere un contesto molto complesso, molto eterogeneo e che ha delle problematiche specifiche che noi camminando proveremo a leggere, a studiare. Avete coinvolto anche delle istituzioni e professori universitari, volete smuovere un po' le acque? Sì, vogliamo sicuramente creare degli spazi di discussione attorno a questo tema che sappiamo comunque essere molto sentito a livello di comunità locali. Quello che è successo l'anno scorso sicuramente ha avuto un'influenza, però l'obiettivo è sicuramente quello di costruire dei momenti di dibattito, di riflessione, di discussione che coinvolgano soprattutto le comunità locali, le amministrazioni, ma anche il mondo della ricerca, il mondo accademico, perché è proprio quello l'obiettivo, costruire dei ponti tra società civile, amministrazioni e accademia. San Michele del Carso, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Animali giganti che sbucano dai muri delle case della pedemontana pordenonese, li realizza un muralista e sono sempre più richiesti. Siamo all'animale gigante numero? Dovrebbe essere il 23, credo, o 24, non so, ormai ho perso il conto, dai. Dalla volpe che sbuca da un arco settecentesco ad Aviano ai bassotti che prendono vita su una vecchia cabina elettrica a Cordenons. Giulio Masieri, pordenonese d'adozione, è l'artista degli animali giganti. Li realizza con grandi murales in abitazioni private ed edifici pubblici. Attività nata per caso durante l'isolamento nel periodo della pandemia. Oggi è richiestissima, l'ultimo lavoro in questa casa di Zoppola. Vanni Moret, lei è il proprietario di questa abitazione, come le è venuta l'idea di commissionare quest'opera? Io sono amante del pastore tedesco, dopo tranne un'amica mi ha detto di lui che faceva questi lavori, sono andato sul suo sito, mi sono piaciuti, l'ho contattato e deciso subito. Che effetto le fa vedere la realizzazione di quest'opera? Pelo d'oca, bellissimo, mi piace. Mi piace tanto. Grazie chiaramente ai social è partita questa cosa e adesso mi ritrovo qui, praticamente è diventato a tempo pieno, insomma, star dietro gli animali, insomma, devo farli, dipingerli e poi preoccuparmi che rimangano intatti nel tempo. Perché questi animali giganti piacciono così tanto? Guarda, sinceramente non lo so, ma forse anche perché abbiamo bisogno di cose un po' spensierate che non ricordino sempre la tristezza anche dei momenti che ultimamente poi cioè come è stato durante il Covid, che comunque era un periodo non positivo, e adesso che abbiamo insomma gente che butta bombe qua vicino, insomma, magari il fatto di guardare un animale ti mette un po' più di serenità. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Umberto Eco, la Biblioteca del Mondo, il documentario che sarà proiettato per l'ultimo appuntamento del programma estivo di Cinema Zero in cartellone a Pordenone allo spazio Wow nei Giardini Francesca Trombino alle 21. Sullo schermo la raccolta di libri dell'intellettuale, scrittore medievista noto sia per i numerosi saggi e romanzi scritti sia per le diverse onorificenze ricevute all'estero, in Italia e in aggiunta alle 40 lauree internazionali honoris causa che gli sono state conferite. Al regista del documentario, Davide Ferrario, che interverrà alla proiezione da remoto, abbiamo chiesto qual è la particolarità della collezione di libri di un uomo che aveva diretto una casa editrice, Bompiani, e ne aveva anche fondata una, la Nave di Teseo. La biblioteca di Umberto Eco colpiva per la sua grandezza, per essere una biblioteca privata, 40.000 volumi moderni più altri 15.000 dislocati nella casa di campagna e 1.500 libri antichi di grande valore che facevano una sezione a parte della biblioteca, che era forse la parte più interessante della biblioteca, mentre gli altri erano libri di uno studioso che aveva dentro quegli scaffali tutta quello che poi lui ha spiegato nei suoi libri. Che cosa ci racconta di Umberto Eco la sua biblioteca? Direi ci racconta una cosa in generale, e cioè la vastità degli interessi di Eco, perché su quegli scaffali c'era veramente ogni cosa, dalla filosofia a Charlie Brown, come d'altra parte lui ha dimostrato spesso di non considerare più bassa la cultura popolare che non la cultura alta, classica, ma poi una cosa specifica, e cioè davvero la sua biblioteca personale erano questi libri antichi che erano tutti caratterizzati da una cosa, erano libri sbagliati, come diceva lui, cioè non erano libri che raccontassero teorie verificate scientificamente o legate alla verità, ma erano in qualche maniera, come si dice adesso, teorie alternative sulla realtà, per capirci. lui aveva i libri di Tolomeo, quello che pensava che al centro del sistema solare ci fosse la Terra, un sistema geocentrico, e non aveva Galileo che invece l'aveva vista giusta con il Sole al centro. Lui aveva tutti i libri di persone che avevano sbagliato tutto. Che cosa voleva trasmettere di Eco che riguarda tutti, magari anche i giovani, con questo suo documentario? La cosa che colpisce di più chi è giovane adesso e che ne ha una conoscenza superficiale è che vedendo il film si rende conto che lui parla della contemporaneità anche in pezzi di intervista registrati magari 20 anni fa, soprattutto sul web, quando parla della credibilità del web e del problema che il web non ha filtri, contrariamente ai libri e alle biblioteche. Ecco, e quindi questo genera un mondo che adesso si dice di fake news, termine che allora lui non impiegava, ma di quello sta parlando. Lui sta parlando di noi, ma profeticamente ne parlava 20 anni fa. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Pubblicato sulla rivista internazionale Frontiers in Immunology, uno studio su una particolare proteina del sistema immunitario chiamata C7, che se difettosa riduce le difese dell'organismo contro infezioni ricorrenti batteriche gravi. Il lavoro vede coinvolti i ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste, il Burlo Garofalo di Trieste e l'Università La Sapienza di Roma. In particolare persone con deficit alle proteine del completamento hanno un rischio notevolmente aumentato di contrarre meningite, polmoniti e otiti. Identificare prontamente questi deficit consente di attuare tutta una serie di misure sanitarie volte a minimizzare la probabilità di ulteriori infezioni come le vaccinazioni e il trattamento antibiotico preventivo. Trasporto pubblico on demand per arrivare al rifugio Tolazzi, il nuovo servizio a chiamata della TPL FVG che collega Forni a Voltri al rifugio Tolazzi, è attivo ancora nei giorni festivi fino al 3 settembre nelle fasce orarie 7:10 e 14:17. Il rifugio è raggiungibile via bus da tutte le fermate di Forni a Voltri e Collina. Per utilizzarlo è necessaria la prenotazione, che si può effettuare telefonando al call center TPL dedicato. Si chiama quindi il numero 040 9712 344 e si seleziona l'area di Udine. Comunicando la data, l'orario e la fermata di interesse, l'operatore individuerà la migliore soluzione di viaggio. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. Ed era questa l'ultima informazione di questa edizione del giornale radio regionale. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il giornale radio alle 15 su questa frequenza e prima il telegiornale sul terzo canale televisivo alle 14. In regia Tommaso Vinoni e Carlo Morello, in redazione ha collaborato Laura Sarasini. Da Andrea Saule e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.